guardia dei tuoi pensieri, figlio addormentato, che troppo facilmente in questo tempo possono tenderti un tranello. Non cercare in altri le responsabilità del tuo agire. Domina il tuo istinto e veglia senza sosta sull'abominio del tuo rancore. Se dovessi lasciare le terre che ho vissuto, come se dovessi lasciare le terre che ho vissuto che mi scrutavano con il sospetto, come se avvertita nell'aria la morte, dovessi andare via. Dove sei? Per te potrei mangiare il sole a morsi. Per te potrei correre nel bosco a occhi chiusi. Per te potrei volare con due farfalle tra le mani. Dove ti nascondi, figlio del vento? Io che non conosco il mondo, ti ho confinato la mia esperienza di vita in questa terra. A differenza tua, sempre in giro per valli e colline, col sorriso stampato sulle labbra e visti al seguito, io dovevo andare via. Subito, partire col cuore freddo e inoltrarmi sotto un cielo avaro di luce che incombeva pesante sul mio destino. Ma dove sei? Che il sole sta calando. Dobbiamo andare. Sembrava tutto vero, te lo giuro. Era come se non mi sentissi più accolto da quelle stesse campagne di cui sappiamo tutto. Quando al tramonto la sua luce più gentile mi disegna nuovi mondi, quando soffia il vento caldo preannuncia piogge pesanti, e quando spira quello leggero che farà l'aria più fresca. Dove sei, portatore di gioia? E oggi è il giorno dell'offerta. Prendi. Dovevo congedarmi da quelle terre in cui sono ferite le nostre fantasie di bambini, dai boschi misteriosi che tu marcavi sicuro con me dietro, che ti seguivo a testa bassa per controllare meglio ogni passo. Dire addio alle foreste buie dove più volte abbiamo smarrito la via del ritorno, ma tu non mi lasciavi mai la mano. Dimenticare i fiumi pericolosi che abbiamo sfidato col cuore in gola, e tutte le montagne da cui gridavamo le nostre preghiere, inventate a un Dio che volevamo stupire. Per te potrei bere un fiume intero e far nuotare tutti i pesci nella pancia. E io potrei nascondere le lucciole per nascondere le tenebre. Io potrei montare sopra un grillo per saltare dentro al cielo. Non mi farei più aspettare. E tra poco sarà tardi per donare al nostro Dio. Io non mi potevo sottrarre. Dovevo separarmi dalla terra in cui ho costruito tutto quanto attorno a me con la sola forza delle mie braccia. Abbandonare le campagne che ho organizzato in precise geometrie, spianando intere valli e deviando fiumi tortuosi per rendere l'acqua utile alle mie esigenze. Ma io non avevo scelta, mi diceva. Via da questa terra! Non ti appartiene niente di ciò che non hai ricevuto! E cosa hai fatto, signora disgraziata? Via da questa terra! Via da questa terra. Via da questa mia terra. Di cui ho capito pazientemente i segreti delle piante che ho coltivato nel periodo delle piogge e le contraddizioni di quelle che preferivano calde temperature per maturare il loro ciclo di vita. E mio fratello? Che vaga per i campi al comando del suo gregge, abituato ad aspettare sotto un albero che nascono capretti, agnellini. Lungi da questo suolo! A cui ho dedicato tutto il mio impegno e tutta la mia fatica, prima di vedere spuntare una piccola gemma tra le foglie di qualche albero. Ma guarda mio fratello! Che gli basta allungare le mani per pungere le mammelle di qualche capra e nutrirci senza sforzo. Stai in guardia dai tuoi pensieri, che io l'ho addormentato. E troppo facilmente in questo tempo possono tenderti un tranello. A cercare in altri la responsabilità del tuo agire. Domina il tuo istinto e venga senza sosta sulla dominio del tuo. Adesso che devo tenere gli occhi aperti per evitare che brutti pensieri e tempi di angoscia abbiano la meglio. Dove sei il sorriso di latte? E perché mi hai abbandonato nel giorno dell'offerta? Perché? Potrei placare un grande incendio facendogli il solletico. Per te potrei far guardare i girasoli dalla parte della luna. Convincere un agnello a mangiarsi il lupino.